America 24 di Mario Platero. Is Ea Id, lui, lei, esso, questo è il titolo di questo brano musicale che vi ho fatto ascoltare, è stato eseguito a Trattoria 5 qui a New York, è un ritmo molto jazzato, molto evocativo, questa è l'idea, di un happening molto particolare di cui vi voglio raccontare, perché spesso parliamo di vino, parliamo di alimentazione, parliamo di così creatività nel cercare di portare i nostri prodotti in America. Ebbene, questa è una di quelle occasioni in cui in effetti la creatività è molto particolare, perché si mischiano musica, testo e vino. Quindi un assaggio di vino, un testo che evoca quello che questo vino può significare o dare, trasmettere come emozioni, e naturalmente la musica di sottofondo. Abbiamo con noi Tony Pancella, il pianista di questo sestetto, che qua in America ha artisti tra l'altro straordinari, perché per esempio c'è Cameron Brown al contrabbasso, poi ci sono tre fiati, batteria, tromba, sax, trombone. Insomma, Tony, raccontaci questa esperienza di jazz. Qui, insomma, sei stato un po' intimidito nel fare una performance di jazz nel cuore di New York. Certamente è stata un'esperienza molto gratificante, anche grazie all'altissimo livello dei musicisti che hanno suonato con me, ma è una cosa che, insomma, fa parte un po' della routine, del lavoro. Nera, passione e tormento, questo è un altro brano in concerto sempre a Trattoria 5. Allora, c'è una caratteristica di questi brani che devono evocare in qualche modo così un'emozione particolare, un modo di essere. Come si arriva a questo con la musica? Beh, non si arriva facilmente. Diciamo che la musica in questo caso è stata molto aiutata, cioè noi come compositori, in particolare io sono stato incaricato di scrivere le musiche per questo CD, che in realtà è stato fatto in Italia con musicisti italiani. Siamo stati molto aiutati, abbiamo avuto delle suggestioni scritte, abbiamo ovviamente avuto modo di degustare, assaporare i vini in questione, e quindi insomma la musica è una logica. Cioè noi in genere, anche quando scriviamo musica, in genere ci serviamo e ci nutriamo di suggestioni. In una favola di Fedro, una cornacchia rimane colpita dalla bellezza delle splendide penne di un pavone. Decide allora di rivestirsi con le penne del pavone per risultare più bella, ma fallisce clamorosamente nell'intento. Forse perché l'eleganza è un dono naturale e non acquisito. Si può dire lo stesso di un vino di classe? Possiamo considerarlo talmente aristocratico da gustarlo in un flute da champagne? Dalla musica all'interpretazione letteraria. Giugiò Rappattoni, attrice, grande attrice italiana, doppiatrice di attrici altrettanto brave, possiamo dirlo. Beh, Giugiò, sì, Renée Zellweger, Nicole Kidman, Julia Roberts. Quindi quando sarete al cinema e vedrete alcuni di questi film con queste grandi attrici americane, è possibile che la loro voce sia doppiata da me. Dacci un'idea di che cosa è stato per te leggere alcune di queste frasi, che poi non sono necessariamente quelle che ci hai letto, ma che mm-hmm. sono descrittive del vino, di una sensazione del vino. Ma guarda, io ho accettato di entrare in questo progetto perché mi divertiva. Questi vini intanto sono fantastici e in effetti quello che io dico hanno una certa rispondenza poi nel gusto, nel gustare il vino. Per cui insomma l'ho trovato un progetto divertente, ma anche di grande spessore. Bene, abbiamo sentito la musica, abbiamo sentito la letteratura, l'interpretazione di un'attrice. Beh, adesso sentiamo il regista di questa operazione che si è tenuta a Trattoria 5, cioè Franco Deusanio, imprenditore degli Abruzzi, un imprenditore vinicolo, che ha creato questa idea di attribuire al vino delle sensazioni. Il vino deve rievocare, grazie alla sua composizione biologica, delle sensazioni. di Nocciano, l'azienda chiusa grande, azienda vinicola, vini di vario genere, ce ne sono due in particolare, Perla Nera e Perla Bianca, che secondo lui sono fra i migliori, e vi introduco quello che per me è un termine nuovo, perché Franco Deusanio è un vinosofo. Cosa vuol dire vinosofo? Buongiorno Franco. Buongiorno a tutti. Ma il vinosofo, dei giornalisti hanno cominciato a chiamarmi così e la cosa non mi dispiace. Ma quindi lei è l'unico vinosofo? Sì. Quindi sì, apriamo, possiamo dire che si è aperta una nuova categoria? Sì. E quindi tutti possono iscriversi a, diciamo, provare, sì, a competere. Ci riusciranno o no? No. Vedremo. Ci dia un'idea della sua filosofia. E io come produttore lavoro un po' al contrario degli altri, cioè penso prima all'emozione che deve dare un vino, e una volta che ho definito bene questa emozione, traduco in caratteristiche organolettiche che deve avere quel vino per dare quell'emozione. E quindi in questo caso, per amplificare l'emozione che voglio dare con un vino, ho pensato di mettere in musica i miei vini. Quindi in realtà i musicisti, partendo dalla scheda organolettica, hanno composto per ogni vino un brano che diciamo interpreta questo vino. Secondo lei è piaciuto agli americani? Certo, piace, perché anche gli americani hanno voglia di emozionarsi. E tutti siamo presi, diciamo, nel quotidiano, dobbiamo stare attenti perché c'è la competizione, perché non c'è molto buonismo in giro, e quindi soprattutto quando si sta con gli amici, si sta in compagnia, si beve, secondo me fa piacere un po' a tutti scoprire che dietro quella bottiglia c'è una storia, c'è una filosofia di vita, c'è un atteggiamento di vita. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. La cantante indie Leslie Feist è andata da David Letterman e ha cantato una canzone. Ha lanciato il suo ultimo single, How Come You Never Go There?